Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Prosegue il nostro percorso all'interno del mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallin, un percorso che ci fa salire di grado. La settimana scorsa eravamo nella scuola dell'infanzia e, come detto, questa settimana saliamo nella scuola primaria, così si chiama, o per la mia generazione, quelle precedenti, la scuola elementare. E allora saluto Adriano Dotto, che è presidente per Treviso ma anche consigliere regionale dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Bentornato Adriano. Grazie, buongiorno. Dunque, bambini quindi dai 6 agli 11 anni, sì, questa, diciamo così. Questa è la fascia. Ti chiedo innanzitutto, da esperto di tanti anni, oggi nel 2012, questi giovani, giovanissimi o bambini, come sono? Beh, una bella domanda, è molto buona, molto bella, saggia direi, perché per inquadrare, diciamo così, questa fascia d'età, evidentemente bisogna capire chi arriva a scuola. Diciamo che un ragazzo, lo chiamo così anche se ha 6 anni, un ragazzo chiaramente sveglio, figlio del 2012 chiaramente, con i pro e con i contro. E per elencare qualcosa, diciamo che soprattutto sono ragazzi vispi, fin troppo anche, intelligenti, capaci, dinamici. Ecco, il dinamismo non manca, cioè, senza dubbio. Dinamismo fisico e mentale? Fisico e mentale, soprattutto quello fisico, direi, aggiungerei io. Perché? Perché evidentemente rispetto alle anche le altre generazioni che nella scuola ho avuto da 40 anni, sono, diciamo, ecco, più dinamici, proprio perché il rispetto delle regole talvolta salta. Non si può generalizzare, questo è chiaro, per forza di cose. Però diciamo che c'è una certa vivacità, e quindi certamente il docente, l'insegnante non si addormenta in classe, è perennemente, costantemente, diciamo così, anche bombardato lui da richieste, da sollecitazioni, da chiarificazioni. Da poi nella prima classe elementare in particolare è chiaro che è proveniente questo bambino, questa bambina, dalla scuola dell'infanzia, deve avere del tempo per acquisire delle regole che nella scuola primaria, come dicevi tu, evidentemente già ci sono, perché la cosa più importante che è necessaria è proprio dar loro una certa regola di vita iniziale, diciamo così, di comportamento, di atteggiamento, di, diciamo, anche di esigenze da parte della scuola, perché è giusto esigere a 6 anni il rispetto per l'altro, il rispetto per l'insegnante. Beh, è chiaro, come noi insegnanti rispettiamo i bambini, i ragazzi, chiaramente rispetto tra di loro soprattutto. E qui c'è una nota anche dolente: non è che si rispettino facilmente tra di loro. Quindi ecco, anche qui c'è una nota che da sottolineare, chiaramente da tener conto di questo. Ma questo più perché sono sempre successi litigi all'interno, sì, delle classi. Sì, certamente, però certamente. È un fenomeno, appunto, nella tua esperienza pluridecennale. Sì, che è un fenomeno, direi, in aumento. Mancanza di rispetto per l'altro, o meglio, c'è sempre stato lui, eccetera. Sì, eccetera, okay. No? Quindi, ecco, però diciamo che rispetto alle altre generazioni vedo maggiore, anche, potrei dire, tra virgolette, evidentemente, aggressività. Maschile o femminile anche? Ma di entrambi. Non c'è più differenza. Quindi vuol dire che qui bisogna guardare, chiaramente senza lanciare colpe a nessuno, per forza, né alla scuola dell'infanzia né alla famiglia, ma direi che necessita, diciamo così, far crescere questi ragazzi in una maniera più armonica, direi io. Ecco, in questo senso sarei proprio per cercare, assieme alla famiglia evidentemente, perché anche qui c'è un discorso educativo di mezzo. Bisogna, ecco, sempre non generalizzando, vedere che tipo di educazione, di presenza della famiglia, presenza dell'adulto genitore c'è nella fase educativa di questi bambini. Questo si verifica perché ormai a 6 anni, diciamo, gli elementi fondamentali ci sono tutti, non c'è dubbio. Ecco, l'importante è sapere chi ci sta dietro, cioè, in questo senso la famiglia stessa, per esempio, è importante per la prima fase educativa, perché senza dubbio quando bambini arrivano a scuola, già la scuola dell'infanzia, c'è già un pregresso, cioè un'educazione in famiglia. È molto importante sottolineare questo, secondo me. Occorre che la famiglia, le giovani generazioni, ecco, tu hai iniziato con le giovani generazioni, io parlerei anche di giovani generazioni di genitori, perché a questo punto è importante sapere educare i propri figli. Ci sono invece genitori che arrivano, purtroppo, dicendo non so che cosa fare con questo bambino. Ecco, qui c'è un discorso educativo, capacità educativa da parte dell'adulto, un genitore. E quindi un segnale che guardando la televisione, che è un po' lo specchio della nostra società, esatto, si sono anche moltiplicati i programmi che insegnano a fare i genitori, che insegnano a fare le mamme, che insegnano a cucinare, non ne parliamo. Senza dubbio fare il genitore è una cosa difficile, senza dubbio. Anche l'insegnante non è facile farlo, però ecco, ripeto, l'educazione è fatta dalla famiglia, in particolar modo all'inizio, proprio come un modus vivendi, così il bambino cresce già con già da questo punto di vista arriva formato a scuola. Formato in un modo o nell'altro. Esatto. E ti pare che ci sia una maggiore incidenza, magari tra i tanti aspetti, delle separazioni o delle difficoltà tra i genitori? Ecco, tu stai toccando un problema molto, molto determinante, direi. La parola giusta è determinante, proprio per la crescita di questi bambini. Bambini che hanno più genitori, talvolta più papà, talvolta più mamme, oltre ai nonni, perché a questo punto arrivano, si moltiplicano anche quelli, e qui c'è il discorso della delega, che va fatto, perché talvolta, educativamente parlando chiaramente, talvolta il bambino è spaesato, non sa dove ha vissuto, dove ha lasciato le sue cose, cioè non ha un punto di riferimento, una casa, ha più case, più luoghi, più educatori, più viziatori, tra virgolette, perché poi i nonni chiaramente non recedono esatto. E quindi il bambino ha modelli educativi di fronte, vari, plurimi, e non ha un punto di riferimento. Con quello posso fare questo, con l'altra persona posso fare quello che voglio. A scuola no. A scuola, quando arriva, ha una presenza. E noi insegnanti tendiamo a unificare questa presenza, anche se siamo in più insegnanti in una classe. Educativamente dobbiamo avere anche noi una linea uguale di educazione. Certo. E questa frammentazione poi la Questa è una frammentazione pericolosa per la crescita del bambino, perché il bambino riesce a perdersi, non riesce più ad avere se stesso, non essere se stesso. Questa è una prima fotografia, dunque breve pausa e poi torniamo toccando altri aspetti della vita nella scuola primaria. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Sapresti dire chi sei, sapresti dire perché tra noi c'è una gran voglia di farsi male. Ai, ti dà la vita di guai, che grandi cosa penso di fare, non voglio smettere mai di sognare. Vuoi, che non ti basta mai, e lo ripeti con un'ossessione, con il sorriso da televisione. Solo, oh no, è tanto giro. perché noi siamo come si vuole che si sia. Sei le scelte che non fai, è già difficile confessare, ma è più difficile lasciarsi andare. Al mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Di nuovo insieme con questa nuova puntata dal mondo della scuola con Adriano Dotto. Stiamo parlando della situazione, cercando di fare una fotografia nella scuola primaria. Abbiamo parlato della frammentazione umana che tanti certo. bambini vivono proprio a partire dalle separazioni all'interno delle famiglie, che diventano più famiglie, più punti, più di, punti riferimento, di riferimento, troppi punti di riferimento. Talvolta troppi. Ci sono strumenti di aiuto per i bambini, per le famiglie, per voi insegnanti? Beh, noi abbiamo il consultorio nostro di Treviso in particolare, quello che io abito qui, quindi certamente lavora sodo, e noi spesso partecipiamo e contribuiamo a dar loro una mano per affrontare le varie problematiche, che non sono soltanto quelle dei bambini, diciamo, disabili, però ci sono altre, queste difficoltà, diciamo così, di adeguamento ad uno stile di educativo unico, stile educativo da parte del bambino, comporta talvolta, come dicevo prima, dei disturbi. E quindi ecco che intervengono vari operatori sociali, e purtroppo siamo sempre più spesso, questo lo vedo fin da diverse generazioni, sta sempre aumentando, e bisogna, necessità di avere un appoggio esterno da parte del bambino e da parte delle famiglie. Ma è importante che questo servizio ci sia, senza che dubbio venga c'è, anche... c'è, è positivo, perché senza certo. dubbio è positivo. Tocchiamo un altro aspetto, l'abbiamo citato, quello della disabilità, ad esempio, che è sempre un problema, è anche una risorsa. Com'è la situazione attualmente? Ma che sia risorsa all'interno del gruppo classe, senza dubbio è risorsa. Io la vedo sempre così, l'ho sempre vista così, ho avuto esperienze 40 anni fa, direi prima dell'inizio dell'inserimento delle persone disabili nella scuola, con la Regione Veneto, io con altri due operatori di Treviso, educatori di Treviso, abbiamo fatto le prove, no? Uh-huh. per l'ingresso di questa 517, e quindi questa legge 517, quindi io la vedo sempre come fatto positivo. Certamente oggi la nostra società, mi dispiace così sottolineare questo aspetto, in questo momento particolare dell'Italia, del nostro paese, ecco, diciamo così, i tagli avvengono, sono presenti anche in questo settore, dove ci sono le necessità, le vere necessità anche umane, no? E questo fa sì che questi ragazzi abbiano sempre più bisogno di presenza qualificata. Uh-huh. e quindi da parte del consultorio, come tu dicevi prima, e all'interno della scuola con insegnanti di sostegno, con personale specializzato. Certo. E diciamo che quest'anno sono venuti meno anche dei ulteriori posti. Si blatera tanto che sono stati aumentati, nella nostra realtà il rapporto 1-1 non esiste più, o quasi più. Esiste un rapporto 1-2, 1-3, 1-4, quindi insegnanti sostengono che gira con 4 persone disabili, non che siano diciamo così parzialmente disabili, ma disabili veri e propri. Quindi questa è una veramente una criticità, direi, da parte del nostro paese in questo momento della scuola. La stiamo vivendo cercando di chiaramente adeguare il nostro intervento educativo e orario, chiaramente, per fare in modo che questi ragazzi abbiano tutti il maggior contributo possibile da parte della persona adulta e specializzata. 1-4, 1-5 vuol dire difficoltà per l'insegnante che deve girare, deve giostrarsi con persone diverse. Con persone diverse dalla normalità e persone diverse nella diversità. Certo. Quindi non è facile per un insegnante, sia pur specializzato, adeguare, intervenire e organizzare il proprio lavoro orario. In una settimana. E poi problemi anche per i ragazzi che hanno evidentemente sono meno seguiti, nel senso che sono seguiti, sì, chiaramente, ma non hanno per esempio una certa continuità, o forse una certa continuità diciamo oraria, attraverso l'intervento di una persona che poteva, perché come nel passato si è fatto intervenire in continuità, dar continuità all'intervento educativo, e questo è molto importante. Invece così diventa un intervento spezzato. Spesso c'è una lamentela da parte della classe docente che chiaramente deve far fronte a un buco, quindi all'intervento educativo dell'insegnante di sostegno deve intervenire insegnante di classe, ma con la presenza anche di tanti altri alunni. Certo. E quindi gli alunni vivaci di cui parlavamo all'inizio, come si pongono? Quando un bambino è vivace, chiaramente guai se non lo fosse vivace, perché chiaramente piuttosto che addormentato meglio il vivace. Ecco, quando sono insieme fanno gruppo, come si dice, e quindi diventano la loro vivacità si moltiplica chiaramente. Poi penso anche allo stile educativo, magari non assunto da parte dei genitori o parzialmente assunto o dai nonni, dicendo, magari vissuto in televisione, davanti alla televisione, fa sì che assorbano tanti atteggiamenti e comportamenti che la scatolona, chiamalo come vogliamo, ecco. Poi c'è un altro problema, anche questo occorre dirlo. Comprendiamo che tanti bambini vivono davanti al televisore senza una conduzione, cioè lasciati davanti al televisore da soli o addirittura in camera da soli, quindi vedono, si muovono, pigiano e vedono, diciamo così, quello che vogliono senza limiti, e questo è un limite educativo, un problema, esatto. Allora, dalla televisione tra poco passiamo a tutti gli altri apparecchi e apparecchiature tecnologiche che sono entrate anche all'interno delle aule. Dal mondo della scuola. Come One man washed on an empty beach. One man betrayed with a Ultima parte della puntata di oggi dal mondo della scuola. Stiamo parlando di scuola primaria con tutte le sue varie problematiche, bambini troppo vivaci, bambini spesso frammentati per le separazioni all'interno della famiglia, spesso lasciati da soli il pomeriggio davanti ai televisori, e questo ci dava prima lo spunto per parlare anche del rapporto con i bambini delle tecnologie. Queste generazioni si dice sono native digitali, native tecnologiche, sì, perché come per noi quarantenni o cinquantenni, insomma, è normale avere il frigo in casa rispetto ai nostri genitori, per loro è normale che ci siano cellulari, computer, eccetera, strumenti che stanno entrando via via anche all'interno della scuola come mezzo didattico, però c'è poi anche il mezzo personale, purtroppo anche a età bassissime. Sì, ma su questo senza dubbio. Diciamo che già nelle prime classi di scuola primaria vediamo maneggiare il cellulare quantomeno, cosa che per esempio noi insegnanti non facciamo, perché anche se l'abbiamo in tasca, c'è proibito chiaramente usare il cellulare in classe e ricevere telefonate quindi attraverso il cellulare, ma in bambini, qualche bambino ha già la tecnologia pronta, e qui è un discorso educativo, cioè come per noi non è proibito a livello legislativo, per loro dovrebbe essere un discorso educativo non avere il cellulare in classe, anche perché il rispetto e diciamo il concetto educativo è quello di ascoltare, parlare, dialogare, stare insieme, divertirsi anche, ma non certamente avere un punto di distrazione in questo momento in classe. Sì, è vero, ci sono nuove tecnologie nella scuola. Abbiamo il computer, abbiamo l'aula informatica, abbiamo degli orari ben precisi di aula informatica, ogni classe può accedere chiaramente all'aula informatica, laddove, faccio un esempio, l'anno scorso io avevo una prima elementare, ho fatto un discorso teorico, quest'anno con la seconda elementare faremo un discorso più pratico, cioè andremo un attimino a analizzare non soltanto le funzioni del computer a livello teorico, ma in pratica lo utilizzeremo per fare cosa? Ma per scrivere brevi testi, evidentemente, nella seconda scuola primaria. Capito. Però in quinta, all'ultima classe, faccio un esempio, i ragazzi riescono chiaramente ad arrivare all'ipertesto, insomma, tranquillamente. Insomma, capita di trovarli già educati e autonomi? No, direi che usano il computer a casa, chiaramente, come un, diciamo, il mezzo per giocare, quindi tanti giochi. A scuola, è chiaro, i giochi ci sono, ma il nostro intento è chiaramente quello di educare all'uso di un computer, facendo degli ipertesti, quindi parole, musica, canzoni, tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi costruire, diciamo, un testo come il tema si faceva una volta, costruirlo attraverso chiaramente il computer, che è un mezzo. E non soltanto il computer, abbiamo anche la LIM, cioè la lavagna esatto, collegata al computer, per cui anche lì le proposte educative sono variegate, non siamo al tempo delle aste, diciamo, tra virgolette. Certo, ecco. Esatto. Quindi ecco, e c'è una certa tecnologia che pian piano i ragazzi assumono attraverso, appunto, il nostro insegnamento. Di questo credo parleremo la settimana prossima più approfonditamente con Maria Luisa Furlan per quanto riguarda le scuole medie e superiori. Anche lì continuano chiaramente a produrre, ad evolvere, certo. Tocchiamo un ultimo aspetto, cioè quello della presenza degli alunni stranieri, che sono numericamente, lo dicono le statistiche, sempre di più. Certo. Guardi, io mi sono interessato per tanti anni di intercultura e devo dire che Treviso e Vicenza popolano a questo punto, dal punto di vista numerico, proprio come presenza straniera. E sono ragazzi che arrivano soprattutto in questo momento da noi, per esempio nella provincia di Treviso, dall'est più che dalla Cina come c'è stato o dall'Africa come c'è stato in passato. Dall'est provengono molti ragazzi e quindi qui c'è bisogno di alfabetizzazione e di fatto la scuola lo fa, perché noi abbiamo dei colleghi, degli insegnanti, anche sottoscritto, per esempio, interviene educando alla L2, cioè alla lingua 2. Non si tratta di insegnare italiano a bambini stranieri come lo si fa ai nostri ragazzi, ai nostri conterranei, ma una formazione linguistica che parte dalle esigenze dei bambini, ma le esigenze proprio le più immediate, cioè il significato, il significante di un oggetto. Cioè quell'oggetto si chiama così, serve a, per, e via dicendo. E questo attraverso, diciamo, chiaramente dei corsi di alfabetizzazione che durano 2-3 anche tutto l'anno, finché i ragazzi acquisiscono un certo linguaggio. Direi soprattutto, al di là, diciamo, dell'insegnamento nostro, lo acquisiscono con i pari, cioè con i compagni. E diciamo che c'è soddisfazione vedere come questi ragazzi assumono la nuova lingua, la nostra lingua italiana, e magari dimenticano la loro. Ed è cosa, difatti, io lo dico sempre: mai dimenticare la propria lingua. Ho avuto anche 2-3 anni fa un ragazzo che acquisiva 4 lingue. Quindi una formazione a 10 anni di 4 lingue ben parlate, che io non ho, che l'adulto il sottoscritto non ha, ma il bambino sì. Ecco, quindi questo, ci sono dei vantaggi anche in questo, e senza dubbio comunque l'intervento di alfabetizzazione da parte della scuola è valido, è garantito anche da una legge regionale. C'è la possibilità di, diciamo così, intervenire anche in orario extra scolastico nostro come insegnanti, chiaramente nell'orario scolastico dei ragazzi, proprio per fare questa alfabetizzazione. E per grazia di Dio, ancora abbiamo dei fondi ogni anno riservati a questi interventi. Il tempo purtroppo è passato, ma torneremo su questi argomenti in un prossimo incontro. Grazie ad Adriano Dotto. Grazie a voi. E grazie a voi per l'ascolto. Il Mondo della Scuola torna fra 7 giorni a quest'ora. Dal Mondo della Scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.